Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in una puntata in cui, come sempre, vi sarà il venerdì la poco invidiabile classifica della settimana. Due le notizie principali, assieme chiaramente al coronavirus, che però riguarda solo parzialmente la parte economica, perché sappiamo che l'allarme è di altro genere. Comunque, la prima, ne parleremo fra poco, è il dato sul PIL italiano. Allora, deludente, non c'è altro modo per definirlo, perché cosa è successo? Il dato sul quarto trimestre, come oggi raccontato dall'Istat, ha visto il PIL sostanzialmente frenare nel finale d'anno. Meno 0,3% sul trimestre precedente e 0 sul quarto trimestre del 2018. Allora, battuta d'arresto, dove il PIL interrompe la debole tendenza positiva, scrive l'Istat. Qui vedo che nessuno, per fortuna, l'ha voluta buttare in politica, anche perché il governo, diciamo, attuale, il Conte Bis, si è insediato a fine agosto. Il dato è di ottobre, novembre e dicembre. È difficile imputarlo nel bene o nel male, in questo caso nel male, al nuovo governo. Fatto sta che evidentemente le misure prese anche in precedenza, quota 100 e reddito di cittadinanza, non hanno ottenuto alcun effetto per contrastare quello che è stato chiaramente un rallentamento. Lo dico senza nessuna polemica, però poi le misure economiche vanno anche valutate. E sapete che in tempi non sospetti abbiamo sempre detto che la cosa migliore era ridurre il carico fiscale, pressione fiscale e far partire in busta paga, quindi cuneo, e far partire gli investimenti, perché solo gli investimenti, sbloccandoli, facendoli partire, ti garantiscono una ripresa significativa dell'attività economica. Comunque, non lo dico perché so benissimo, ognuno si prende le responsabilità di quello che ha, però a me non me ne frega nulla del governo Conte Bis, però imputarlo, come mi fa un ascoltatore adesso, a un governo che si è insediato, diciamo, a fine agosto, il dato che riguarda ottobre, novembre, dicembre, ma neanche Mandrake riusciva ad avere un effetto negativo o positivo sull'andamento. Evidentemente non c'è stato un rallentamento dell'economia internazionale, lo abbiamo raccontato, tutto quello che vogliamo, ma non c'è stata la capacità di controbilanciare. Ripeto, a questo punto secondo me è fondamentale che nel paese ripartano gli investimenti, anche perché l'area euro ha fatto comunque più 0,1, che non è un gran dato, nell'ultimo trimestre dell'anno. Per quello che riguarda il dato su 2019, a questo punto faremo 0,2 contro lo 0,8 del 2018, e soprattutto si entra nel 2020 frenando, e questo non è una buona notizia, perché sappiamo che il PIL, al di là dello 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, serve anche per definire il rapporto deficit-PIL, quello famoso del 3%, e più diminuisce il denominatore, più aumenta il rapporto tra deficit e PIL. Allora, dunque, per quello che riguarda, io avevo detto che Trump avrebbe toppato in economia, non ho mai detto che Trump avrebbe toppato in economia, mi sembra che alcune cose che ha fatto abbiano avuto un effetto nelle politiche economiche, in altri casi no. Per esempio, non è un mistero per nessuno che poi l'accordo con la Cina sui dazi sia arrivato anche perché c'erano molte pressioni interne agli Stati Uniti, che temevano che la guerra dei dazi avrebbe finito per avere un effetto boomerang sull'economia americana stessa. Gli industriali americani erano molto preoccupati. Però possiamo andare avanti con il resto, questo come tema. L'altra notizia della giornata riguarda la Popolare di Bari. Perché lo dico? Perché sono stati arrestati, o meglio hanno avuto un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, quindi Marco e Gianluca Iacobini, il padre dominus della banca per 40 anni e il figlio Gianluca Iacobini. Il primo è stato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore di fatto della Popolare di Bari, il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'istituto. Tra l'altro, su questo sono accusati di, tra le altre cose, poche ore prima del commissariamento della banca, avrebbero messo in atto condotte di occultamento dei profitti illeciti, trasferendo dai loro conto correnti, cointestati alle rispettive mogli, somme per complessivi 5 milioni e 600 mila euro. È uno dei particolari che motivano gli arresti domiciliari. E poi, per quello che riguarda altri, parleremo, perché c'è stata anche una dichiarazione molto dura dell'ex amministratore delegato Giorgio Papa, che ha detto che la banca di, che i vertici della Banca d'Italia avevano una estrema condiscendenza nei confronti della Popolare di Bari, nonostante la grave e ristagnante situazione. E accusa Papa, l'ex amministratore delegato, che la banca d'Italia di non avere mai esercitato i poteri di removing attribuiti dalla legge allo stesso supremo organo di vigilanza. Adesso aspettiamo di vedere la risposta della Banca d'Italia, che ha già chiarito, pubblicato sul sito il 13 gennaio scorso, che nel caso della Banca Popolare di Bari non vi erano i presupposti per l'utilizzo di potere di rimozione di uno o più esponenti aziendali. E poi c'è tutta l'accusa dei PM anche di aver taciuto i vertici della Popolare di Bari, quindi Jacobini in primis, di aver taciuto i rischi derivanti dall'acquisizione di Tercas, scusatemi. Interdizione per l'ex amministratore delegato De Bustis, Vincenzo De Bustis Figarola, ad esercitare per 12 mesi l'attività di dirigente di istituti bancari, mi sembra, vabbè, non commento, e di uffici direttivi. Questa misura è stata disposta sempre dall'inchiesta della Procura di Bari. E poi appunto varie intercettazioni di cui parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo dalla reazione brutta anche oggi, devo dire Milano è la peggiore, perché Milano combina l'effetto del dato sul PIL deludente con le preoccupazioni presenti a livello mondiale per l'effetto del coronavirus. 349-238-6666, dicevo, per SMS e WhatsApp. Milano meno 2,35%, è la peggiore, dicevo. Parigi meno 1,20%, Francoforte meno 1,30%, Londra meno 1,40%, e appunto Milano invece meno 2,33%. Va male tutto, chiaramente, con un indicatore, con un indice così. Banco BPM meno 4,80%, Biper meno 4,70%, poi ST Microelectronics meno 4,40%, Pirelli meno 3,80%, UBI meno 3,70%, come Poste Italiane, Telecom Italia e Azimut. Il 3,5 lo perdono Finecobank, Saipem, Exor, UbiBanca. E mi fermo con chi perde il 3%, e cioè Era e Nexi. Dunque, alcuni mi dicono: attenzione a come è andato il PIL della Germania. Adesso lo daremo anche il PIL tedesco, se il dato di oggi era dell'Istat, però. Per quello che riguarda, sì, certo che la frenata di tutta l'industria dell'automotive tedesca ha pesato, l'abbiamo detto decine di volte, anche sull'export italiano, visto che più o meno il 20% di un'auto tedesca ha componentistica italiana. Però quello che sto dicendo è che, a fronte di un rallentamento delle esportazioni per via non di una colpa tra virgolette italiana, ma del rallentamento anche della Germania, è chiaro che non abbiamo avuto elementi in grado di controbilanciare. Guardate, io non sto legando il reddito di cittadinanza, ho solo detto che siccome le risposte, le risorse, scusatemi, sono poche, da sempre diciamo concentrate le risorse sugli investimenti, fate partire gli investimenti in infrastrutture, anche piccoli, perché hanno un effetto volano sul PIL. Mentre il problema del reddito di cittadinanza o di altre formule, quota 100, voi sapete, insomma, la ritengo una cosa non sbagliata, ma un lusso che non ci possiamo permettere. Tra l'altro, sta creando problemi sullo scalone per evitare un salto eccessivo quando finirà quota 100. dicevo, il problema è che non hai usato risorse per altre forme di investimento. Allora, quando tu lasci i soldi in busta paga, anche il cuneo fiscale va benissimo, perché io preferisco comunque sempre gli investimenti, perché gli investimenti sono effettivi. I soldi in busta paga, se uno è davanti a un'incertezza, tende a tenerli in banca, cosa che anche vediamo. Ma detto questo, mancano politiche anticicliche. L'unica cosa che non accetto, ma non perché me ne freghi qualcosa del governo 5 Stelle PD, è dire questi sono gli effetti del governo, perché ragazzi, aspettiamo il primo trimestre, che effetti può avere un governo che a settembre e ottobre stava ancora discutendo sulla manovra di stabilità? Per favore, dai. Sì, sono d'accordo con chi scrive un piano straordinario degli investimenti. Quanto al PIL tedesco, è cresciuto poco, perché la crescita più bassa degli ultimi anni, degli ultimi 6 anni, ha fatto più 0,6%, ed è innegabile che questo nel quarto trimestre abbia avuto un effetto anche sulle nostre esportazioni, quindi sul nostro PIL complessivo. Vabbè, andiamo con le altre notizie. Beh, visto che stiamo parlando di dato sul PIL, sentiamo il ministro Gualtieri che dice... Gualtieri ha parlato di un po' di cose. Allora, ha parlato anche del coronavirus. Andiamo con ordine sul coronavirus. Bilancio attuale: 213 morti e 2000 nuovi casi. La Russia ha sospeso alcuni voli da e verso la Cina. Restano attivi invece i voli dell'Aeroflot verso Pechino, Shanghai, Guangzhou e Hong Kong. Il Pakistan ha sospeso i voli da e per la Cina. 4 altri vettori africani hanno sospeso i voli per la Cina: Kenya Airways, Air Mauritius, Air Madagascar, Rwanda Air. L'indice PMI, quindi l'indice dei responsabili d'acquisto in Cina, è scivolato a 50 punti, però in linea con le attese, quindi non si può parlare di un effetto valanga in questo momento in Cina. Però il capo del Fondo Monetario Internazionale, il numero uno, Kristalina Georgieva, ha detto che il coronavirus avrà conseguenze negative sull'andamento dell'economia mondiale nel primo trimestre, anche se è presto per misurarne l'impatto. Lo stesso ministro dell'economia Gualtieri, alla presentazione del rapporto OCSE, ha detto prematura qualunque stima sull'impatto nell'economia. Per quanto riguarda il virus cinese, opportunamente il paese, devo dire l'Italia, faccio i complimenti al ministro Speranza, a tutte le strutture preposte a questa emergenza sanitaria, già fin dall'inizio ha preso provvedimenti di particolare efficacia e serietà tra i paesi europei che si sono mossi prima e meglio, e adesso naturalmente responsabilmente è stato varato, come noto, dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza sanitaria, che consente di utilizzare delle risorse, di accelerare delle procedure per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a questo virus, che naturalmente deve avere e ha un profilo anche europeo ed internazionale. Quindi siamo responsabilmente e seriamente al lavoro, ed è prematuro naturalmente fare previsioni sull'impatto di questo evento, diciamo, sull'economia globale, sull'economia italiana, perché noi adesso siamo determinatamente impegnati a affrontare questa questione e quindi garantire le misure necessarie per la piena sicurezza di tutti i cittadini. E sul PIL invece, la battuta d'arresto nel quarto trimestre, il dato deludente. E soprattutto chi ha contribuito a questo dato deludente si chiama soprattutto industria e agricoltura. Il terziario è rimasto sostanzialmente fermo. Il ministro Gualtieri ha detto: confidiamo, che vorrebbe dire siamo fiduciosi, in un rimbalzo nel primo trimestre dell'anno. Esamineremo bene i dati e credo questa caduta nel T4 è stata influenzata anche da fattori di calendario non pienamente colti dalla destagionalizzazione, da eventi come dal tempo di novembre, dal quadro internazionale che ha avuto effetti su alcuni dati di produzione del settore della costruzione, da altri eventi. Prevediamo un rimbalzo per il T1 del 2020 di crescita. Il dato si consolida peraltro sul 2019 sul 0,2, che era quello che avevamo previsto originariamente, poi era sceso nella NADEF al 0,1, cioè il governo precedente nel DEF ha messo 0,2, poi noi avevamo messo 0,1 per prudenza, e poi complessivamente si chiude un dato sul 2019 migliore delle previsioni, ma che naturalmente ha un T4 più negativo. Noi questo confidiamo, come ho detto, in un rimbalzo nel T1 2020 e siamo ancora più determinati a lavorare per implementare il nostro programma, la nostra azione di sostegno alla crescita e agli investimenti, attuando le misure quest'anno appunto rapidamente ed efficientemente che sono state varate con la manovra di bilancio. E quindi siamo determinati e fiduciosi che le misure che abbiamo preso concorreranno a sostenere un rilancio della crescita e dell'occupazione e della produttività, della competitività del Paese. Naturalmente siamo anche attenti all'evoluzione del quadro internazionale che, come è noto, soprattutto il rallentamento del settore manifatturiero ha avuto un impatto sul settore della crescita. Mi sembra anche questi dati Istat indicano una differenziazione tra settore manifatturiero e settore dei servizi che invece ha tenuto. Allora sì, T4, citato da Gualtieri, vuol dire il quarto trimestre. Faccio notare, ma non voglio essere lezioso, insomma, che essere confidenti in italiano è un'altra cosa. Confidente è qualcuno che parla, per esempio, con la polizia, è un inglesismo, lo dico perché ormai lo usano tutti. In italiano si dovrebbe dire siamo fiduciosi, non siamo confidenti, però vabbè. Al di là di questo, non mi sembra il problema del PIL l'inglesismo usato dal ministro Gualtieri. Il governatore della Banca d'Italia Visco, oggi nel corso del suo intervento all'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha detto tra l'altro che negli ultimi anni la struttura del lavoro, dell'opportunità di lavoro in Italia si è fortemente polarizzata, non solo in Italia, in molti paesi avanzati, con un'espansione della domanda sia nell'occupazione ad alto che a basso salario, ma con una diminuzione dell'opportunità nell'occupazione a medio salario. E lo stesso Visco dice che occorre migliorare le infrastrutture con una spesa di qualità. Abbiamo bisogno di scuole che siano dotate di strumenti di information and communication technology aggiornati, ma anche attraente e confortevole. Questo lo dico anche per rispondere all'obiezione di un ascoltatore che dice: attenzione, ma lei ha sempre la solita ricetta keynesiana delle infrastrutture e dare i soldi agli industriali. Guardi, non è questo. Cioè, Keynes sosteneva che fosse anche, o Roosevelt ancora meglio, pur di occupare le persone uno potesse scavare una buca la sera e l'altro riempirla il giorno dopo. Ma qui non stiamo parlando di buche inutili. Questo paese ha ancora un deficit di infrastrutture enorme in varie parti, non sono solo le grandi infrastrutture, fermo restando che, come ha ricordato il Sole 24 Ore due giorni fa, i territori, e invito a leggere quell'articolo, in territori dove passa l'alta velocità hanno avuto una crescita del PIL del 6% superiore ai territori dove non c'è l'alta velocità. È chiaro che quello fornisce un elemento, un facilitatore nell'economia, ma lo dico a tutti quelli che ancora hanno dubbi sull'alta velocità, non ho ancora capito cosa dovremmo prendere, se la macchina no perché inquina, il treno no perché non vuoi fare alta velocità, il calesse, ecco. Ma ci sono anche infrastrutture più piccole, tutto il tema dell'edilizia scolastica, dell'edilizia ospedaliera non riguarda grandissime opere, che servono anche quelle. Se però ogni volta che si parla di opere e infrastruttura uno deve immaginare che ci sia la tangente sotto banco, facciamo più niente. Allora andiamo avanti a far crescere l'economia, non so bene come. Va bene, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi la pagina su Focus, la pagina sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Andiamo con la poco invidiabile classifica. La classifica della settimana. Allora, partiamo bassi, come sempre in un paese strano, lo dico col massimo rispetto per la giustizia, ma è un paese molto strano. Vi do solo questi due posti in classifica. Allora, da un lato abbiamo l'estrema solerzia, che non vuol dire che sia sbagliato la decisione, ma solerzia, decisione drastica, draconiana di un giudice a Palermo, dove notoriamente il problema Adesso riprendiamo anche Johnny Stecchino, sappiamo qual è il problema di Palermo. Allora, che succede? C'è un oratorio in una zona particolarmente disagiata, dove che ha ricevuto nel 1955 dei luoghi con l'espressa finalità, con l'espresso obiettivo che devono servire alla ricreazione dei giovani poveri che frequentano la parrocchia, con destinazione immutabile. E quindi lì cosa organizzano? Banalmente organizzano partite di calcio, il campo dell'oratorio, che è guidato dai fratelli missionari della Misericordia e da padre Roberto Ciulla, perché c'è un'attività calcistica. Tra l'altro anche aderisce al Centro Sportivo Italiano, il CSI, e quindi organizzata in maniera diciamo, normale, come tutte le attività ludiche. Allora, c'è stata la richiesta dei condomini che abitano nel vicino di bloccare l'attività perché i ragazzini che giocano fanno troppo rumore, disturbano i condomini, e fin lì uno immagina che in un paese normale ci sia una sentenza che dica: mi raccomando, cercate di tutelare, si gioca a calcio, a basket solo in certe ore, per carità, oppure non fate determinate manifestazioni se devono essere troppo rumorose. No, perché il giudice cosa ha deciso? Niente pallone, niente da basket o da calcio in assenza dei lavori di adeguamento per insonorizzare le mura del campetto. Cioè, nulla di nulla se non nell'oratorio non vengono investiti migliaia di euro per trasformare il campo in una bolla di gomma piuma. E con una regolamentazione da collegio svizzero. Cioè, stiamo parlando di un campo dove giocano bambini spesso presi dalla strada a Palermo. No, lo dico perché anche il giudice non è che può far finta di abitare dove cavolo vuole lui. Allora, il giudice parla di attuale intollerabilità delle attività ricreative e ludiche svolte dall'oratorio. Vieta lo svolgimento di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implichi l'impiego di palloni sugli spazi esterni della parrocchia e dell'oratorio, in assenza di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti e distanti almeno un metro e mezzo dalle pareti dell'oratorio, in modo da evitare che le pallonate rimbalzino in modo rumorosissimo contro esse. Poi chiede l'applicazione di barriere perimetrali in gomma piuma, stabilisce che la pratica ludica sia limitata ad un solo sport per volta e con l'impiego di una sola palla, vieta l'utilizzo di impianti di amplificazione, compreso un megafono, il basket una sola volta alla settimana per una durata non superiore ad un'ora. Ma io non dico, ma è una sentenza questa? Quindi niente musica, bambini, cioè, ma vabbè. Infatti Enzo Muglia, che cura l'oratorio, dice: non permetteremo che si spenga questa fiammella sul territorio. Tra l'altro questo sta avendo un effetto a cascata anche sugli altri oratori cittadini, perché lo strumento sottolinea uno sport educativo per eccellenza per togliere i ragazzi dalla strada. Tra l'altro la vicina casa di cura Torrina interviene dicendo che le attività ludiche svolte su quello spiazzo, lungi dal dar disturbo ai pazienti, allietano piuttosto il loro rumore. Quindi c'è una casa di cura e il loro umore, scusatemi. Quindi c'è una casa di cura che dice: ma noi bambini fanno anche, diciamo, un po' di colore. E dall'altra parte c'è un giudice che addirittura un'ora a settimana l'uso del pallone da basket. A me sembra una roba da pazzi sta qua. Però quello che mi fa ancora più incavolare è che nello stesso paese, diciamo, e anche nella stessa regione, adesso becco la quarta notizia, mentre tu hai avuto un giudice che è così lezioso, hai un altro caso che riguarda l'Università di Catania. Ora, qualcuno si ricorderà dell'Università di Catania, ne abbiamo parlato. La scorsa estate è stata travolta da un'inchiesta per i concorsi truccati che ha coinvolto 40 professori in tutta Italia e ha portato alla sospensione del rettore. La maxi indagine si chiamava Università Bandita e ha accertato come non vi fosse alcuno spazio nell'università per le selezioni meritocratiche. Ma c'è di più. C'è una lettera inviata via PEC al Presidente della Repubblica da Giambattista Scirè, ricercatore siciliano, poi lui l'ha voluta rendere nota. Lui ha 44 anni adesso, ma ne aveva 36 quando vinse il ricorso contro un'assegnazione di una cattedra definita irregolare. Che cosa era accaduto? Nel 2012 l'Università di Catania, o meglio Scirè, denuncia l'Università di Catania per un concorso irregolare per un posto di ricercatore in storia contemporanea nella sede di Lingue di Ragusa. La vincitrice al posto suo, infatti, era una studiosa laureata in architettura. Ora, tu devi insegnare storia contemporanea. Sei laureata in architettura con un curriculum incentrato su titoli totalmente incongrui e non in possesso del titolo di dottore di ricerca, che è obbligatorio per legge. Quindi, voglio dire, non si capisce, o meglio, si capisce fin troppo bene come mai questa qua ha vinto. Cioè, ti sei laureata in architettura, non sai una mazza di storia contemporanea, non hai neanche il dottorato di ricerca, eppure prendi la cattedra. Lui fa ricorso e vince. Ci sono tre sentenze del giudice amministrativo, due del TAR di Catania, uno del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, che è l'omologo del Consiglio di Stato, più una sentenza del giudice penale. Tutte le sentenze stabiliscono in forma definitiva che il vincitore reale del concorso doveva essere lui, stabiliscono e dispongono un risarcimento economico in favore del ricercatore e riconoscono il danno cagionato dai commissari, non solo materiale ma danno anche psicologico ed esistenziale alla sua vita e alla sua carriera. Nonostante questo, l'Ateneo di Catania non ha mai provveduto a stipulare con Scirè un contratto regolare. La sua carriera accademica di fatto è bloccata a 8 anni fa. Ora, si può chiedere la stessa severità del campetto da gioco nell'oratorio di Palermo anche nei confronti di sta Università di Catania, che faccia il contratto dopo 3-4 sentenze? Si può chiedere almeno la stessa severità? Cioè che, diciamo, a pagare non siano solo, so che non c'entra niente, ma mi girano le scatole lo stesso, okay? Perché c'è un giudice a Palermo che sembra che stia nei monti svizzeri e poi non si riesce a far assumere e a fare un contratto regolare nonostante 4 sentenze con l'Università di Catania. Ecco perché mi girano. Comunque, meteo e pubblicità, poi andiamo ai danni veri e propri, ai soldi pubblici. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dunque, si vedono molti messaggi. Guardate sul giudice, ma il problema è usare anche un po' di Granus Salis, non quella sentenza che abbiamo letto. Nessuno dice che devi disturbare i residenti, a parte il fatto che se proprio me la tirate fuori vorrei capire quelle case come sono state costruite, sono tutte in regola, immagino, va benissimo così, ma è disciplinare, nessuno vuole disturbare i residenti, ma non puoi dire si gioca a basket un'ora alla massimo un'ora alla settimana, ma che è una sentenza quella? Vabbè, ripeto, a Palermo, dove adesso sto per raccontare altri casi dove forse i problemi è da fare quasi un elogio a chi porta i ragazzini all'oratorio a far giocare e non li lascia per strada, non lo so, mi sembrano cose così banali, trovate una soluzione, perfino la casa di cuore dice che gli danno allegria. Comunque, dai, andiamo al terzo posto, perché se no mi girano troppo le scatole. Qualcuno mi sta scrivendo, lei adesso... Poi c'è una cosa delirante in cui noi facciamo dell'automasochismo, e eccola qua, ecco la classifica dei luoghi comuni, delle eccezioni fatte passare come pratiche abituali, diffondere autorazzismo e complessi di inferiorità per abbracciare la globalizzazione buona e giusta come l'Unione Europea, quando farà una classifica europea che riguardi Francia, Germania e i virtuosi e civili paesi del nord Europa. Complimenti per il complesso di inferiorità. Senta, certe sostanze vanno trattate con calma però e con attenzione, perché abbiamo attaccato Francia e Germania ogni volta che potevamo nelle politiche assolutamente non a favore dell'Europa ma solo per farsi i casi loro, ma penso di aver fatto centinaia di puntate. Però vede, c'è un piccolo dettaglio: siccome le tasse io le pago in Italia, a me di quello che rubano in Francia sulle tasse dei francesi se ne occuperanno i francesi, i gilet gialli, le manifestazioni. A me interessa come vengono spesi i soldi in questo paese, al di là di una retorica, perché qui pago le tasse, poi quando le pagherò in Francia farò la classifique della semaine, va bene, in un'altra radio. Andiamo avanti. Al terzo posto in classifica, mo mi stanno girando ma devo calmarmi, adesso non trovo più il terzo posto della classifica, dove c'era poco invece da ridere, altro che il campo, anche sul campo da gioco c'è poco da ridere. Oh, il processo Saguto. Vi ricorderete il sistema Saguto, cioè l'ex presidente, siamo sempre in Sicilia oggi, della sezione misure di prevenzione, Silvana Saguto, imputata con il marito Lorenzo Caramma in un processo. Ora, che cosa è emerso da quanto durante la requisitoria del PM Claudia Pasciuti? La PM ha parlato di cifre in eccesso, somme gonfiate per attività di pochi giorni e fatture identiche per uno stesso incarico, uno solo, e pagamenti duplicati per errore, a detta di chi li ha ricevuti, e che però il PM appaiono un poco originali. Le somme richieste andavano infatti al marito della Pasciuti, l'ingegner Lorenzo Caramma. Pensate, attività mai documentate o quando lo erano veniva calcolato un onorario di 52.000 euro per 2 settimane di lavoro in 2 anni. Ora io, per carità, c'è il libero mercato, però vorrei capire, l'ingegner Lorenzo Caramma che cosa aveva, diciamo di così, particolare per meritare di essere pagato 52.000 euro per aver lavorato 2 settimane in 2 anni, cioè una settimana all'anno per stare belli tranquilli, 14 giorni complessivi, cioè che cosa ha portato? Ha scoperto qualcosa di incredibile? No, perché tra l'altro le somme richieste da Lorenzo Caramma erano eccessive rispetto a quanto ritenuto congruo dal tribunale, ma a fronte di stringate relazioni di 2 pagine venivano poi liquidate. C'è addirittura un caso in cui Caramma va un'ora in una settimana sola a visitare la cava Butitta a Bagheria, e per essere andato lì, aver visto la cava, grazie, arrivederci, salutando la cava, prende 3.000 euro al mese. Questo è, diciamo, il processo in carico a Saguto, e qui c'è poco appunto da scherzare, ma mi rendo conto che poi il problema siano i bambini e il pallone nell'oratorio. Oppure potrei spostarmi in Puglia e a Foggia e ricordare come hanno un incendio quasi sicuramente doloso, ha distrutto 23 compattatori della ditta campana Buttol, che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani a San Severo. Erano parcheggiati nel centro conferimento rifiuti, tra l'altro si è sviluppata una nube nera con l'aria diventata irrespirabile. Il rogo col cavolo, che era casuale, è partito da 3 punti di innesco diversi, e dietro si nascondono ritorsioni da parte di alcuni dipendenti licenziati. Questa è l'ipotesi. Licenziati perché c'era stato il furto di un automezzo, il furto di gasolio e minacce di confronti interinali. Ora il sindaco dice: non mollerò, ma non è la prima volta che si sviluppano incendi in aziende che raccolgono i rifiuti. Luglio scorso a San Giovanni Rotondo furono distrutti 33 mezzi della Tecra, a ottobre incendiati altri 13 autocompattatori, e una settimana più tardi le fiamme divampano nel capannone della SIA a Carapelle. Ora, al di là della vendetta dei dipendenti licenziati, secondo me qua dovrebbero, non voglio fare lavoro dei magistrati, capire se c'è dietro anche la Sacra Corona Unita, perché quando gli incendi sono così tanti il giro d'affari sui rifiuti lo conosciamo. E comunque questo era il terzo posto. No, il nome del giudice non lo posso dire, per non, riferito a Palermo, perché non ce l'ho. Se ce l'avessi lo direi, il nome del giudice, ma non ce l'ho. Andiamo al secondo posto, dove stiamo inaugurando una nuova rubrica, ma la liquido velocemente, la nuova rubrica, perché i ladri del reddito di cittadinanza. Allora, la settimana che si è appena conclusa ci ha regalato. Dunque, spacciatore a domicilio che tagliava le dosi di droga sul tavolo della cucina, percettore di reddito di cittadinanza. Titolare di un bar di un ospedale che non aveva mai versato un centesimo di tasse, pur incassando decine di migliaia di euro l'anno, percettore del reddito di cittadinanza. L'operaio di un'azienda che commercia all'ingrosso bevande alcoliche, percettore del reddito di cittadinanza. Il marito di una facoltosa imprenditrice sorpreso alla guida di un'auto di lusso, anche lui percettore del reddito di cittadinanza. La cameriera di un ristorante, anche lei percettrice del reddito di cittadinanza. Vado avanti. Meno male che rischiano pene da 1 ai 6 anni a causa delle false attestazioni. E poi a Bagheria la denuncia di altre 2 persone perché avevano attività commerciali completamente abusive, ma nel frattempo beneficiavano del reddito di cittadinanza, e tra l'altro per 1.140 e 1.050 euro perché non avevano messo di dichiarare le attività commerciali dei coniugi, quindi la famiglia beccava 1.140 in un caso e 1.050 euro nell'altro. E poi ancora reddito di cittadinanza senza requisiti, denunciati coniugi, in questo caso siamo a Prato. E così anche oggi abbiamo esaurito l'aggiornamento sui falsi redditi di cittadinanza. Visto che continuate a chiedermi del giudice di Palermo, io non so se tocchi a lui, ma visto che è così lezioso e duro nel sancire quando il pallone deve essere usato, che praticamente il campetto da calcio deve diventare una bolla in gomma piuma con migliaia di euro di costo, e appunto a un metro e mezzo dalla parete il basket una volta sola a settimana, e gli impianti di non si possono usare megafoni, uno sport per volta, e poi cos'altro aveva chiesto, barriere perimetrali in gomma piuma, barriere perimetrali in gomma piuma. Chiedo allo stesso giudice di occuparsi di quello che sta capitando sempre a Palermo, visto che lì opera, alla Galleria d'Arte Moderna, perché nonostante i 30-40 mila visitatori all'anno, una scolaresca, spero non siano gli stessi ragazzi a cui il giudice ha proibito di giocare nel campetto dell'oratorio, era a visitare il museo, è scappata perché un ratto di dimensioni, diciamo, da museo di storia naturale più che da museo di storia dell'arte, si è messo a correre nelle sale, lo hanno ucciso e poi prima fotografato e poi ucciso, prima ucciso e poi fotografato, non lo so. I bagni sono chiusi, inutilizzati, c'è il cartello è da sempre fuori servizio, le porte sono rotte, i muri sono scrostati, e chi se ne frega degli esposti, dei capolavori che sono lì esposti. La direttrice Antonella Purpura dice: abbiamo già chiesto la derattizzazione, il problema non è interno ma esterno, attorno al museo ci sono diverse aree che necessitano di una bonifica, di lì arrivano i topi, non disturbati evidentemente dalle pallonate del calcio, caro giudice, e quindi è interessante che lei a Palermo si preoccupi della gomma piuma del campetto quando ci sono i topi che scorrazzano, forse sono topi molto istruiti, ma che vanno alla Galleria d'Arte Moderna e arrivano da fuori, no? Perché questo è il contesto, non ha Heidi, Peter e il nonno di Heidi, come pensa il giudice di Palermo. Traffico. Focus Economia. Allora andiamo al primo posto in classifica. Devo dare una risposta a chi mi dice: va bene, allora aboliamo anche la 104 o l'invalidità, visto che ci sono alcuni che sono falsi invalidi e falsi percettori, o meglio veri percettori della 104 senza averne diritto. No, non è questo il punto. Infatti io ho sempre detto che il reddito di cittadinanza, per la parte che è misura di welfare, cioè pensione di cittadinanza o reddito per le famiglie indigenti, è una cosa che va fatta, e è sulla falsariga del reddito di inclusione, che è stato fatto tardi e poco dal precedente governo di centrosinistra. Ho detto che il reddito di cittadinanza è una cavolata quando si tratta di utilizzarlo come strumento per trovare lavoro. E infatti non solo non sta collocando nessuno, ma addirittura abbiamo avuto molte segnalazioni di giovani che non accettano lavori a 800 euro al mese, anche di quello, perché tanto percepiscono il reddito. Ce l'hanno raccontato i centri per il lavoro del sud, non il sottoscritto che se l'ha inventato. Okay? Se poi uno mi dice: ah, è troppo poco 800 euro, dipende, meglio un lavoro che non lavoro. Quindi nessuno sta criticando il reddito di cittadinanza come misura di welfare, però così come portiamo i casi in classifica dei falsi, dei ladri di pensione di invalidità, dei ladri di 104 che danneggiano tutti quelli che ne avrebbero bisogno, portiamo in classifica anche i ladri di reddito di cittadinanza. Non vuol dire condannare la misura in tutto e per tutto, dai. Allora, andiamo al primo posto in classifica. Lo so, delle volte siamo noiosi, o meglio, secondo me siamo tignosi, perché non molliamo alcune cose finché non le vediamo risolte. Quindi andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica. And the winner is... quella che Stefano Zagis, amministratore unico, ha definito una Caporetto. Purtroppo devo tornare a occuparmi dell'AMA, l'azienda per i rifiuti di Roma. Lo stesso Zagis ha definito la situazione disastrosa. Allora, ieri mattina è stato invitato dalla Commissione Capitolina all'Ambiente e ha diffuso i dati della Caporetto. Ora, il problema dell'AMA sono soprattutto i mezzi e gli uomini. Vi spiego perché. Allora, il 32% dell'organico, qui non è l'ATAC, è l'AMA, risulta inidoneo. Cioè, stiamo dicendo che inidoneo a svolgere l'incarico, cioè uno ogni tre non dovrebbe fare quel lavoro, non può fare quel lavoro. È una percentuale doppia rispetto alla media nazionale, anche di città grandi come Roma, o diciamo grandi, non come Roma, ma e mi riferisco a Milano e Torino, dove la percentuale di inidoni va tra il 12 e il 15%, non si capisce perché arrivi al 33% nell'AMA. Quindi nei giorni festivi lavorano solo 1700 persone invece delle 5000 impegnate in media nei giorni feriali. Questo ha fatto sì, per esempio, che durante i 16 giorni del periodo natalizio, quando di nuovo abbiamo visto l'immondizia apparire, o meglio straripare in maniera consistente dai cassonetti, te credo, hanno lavorato in tutto 12000 persone, perché erano tutti giorni festivi, contro le 33000 che avrebbero lavorato negli stessi giorni feriali. Questa a me sembra una follia. Cioè, non è che a Roma, che è una città turistica importantissima, che ha residenti, tu utilizzi meno i ristoranti, fai meno rifiuti il sabato e la domenica rispetto a lunedì e venerdì. Non funziona così. Anzi, c'è il rischio di farne di più, visto che si va di più fuori a cena o si organizzano cena a casa. Quindi è una follia che in 16 giorni di festività abbiano lavorato 12000 addetti dell'AMA contro i 33000 che avrebbero lavorato se i giorni fossero stati feriali. Mancano 40 meccanici, 85 autisti e 300 operatori, però in compenso hai 1500 persone che sono in idone. Ma mi sembra perfetto. Così non si può lavorare, dice Zaghis. Roma dovrebbe essere scintillante, è la capitale della cultura e della bellezza, ma servono persone e mezzi. Ma lo dice l'amministratore unico, deve lavorare al 100% 7 giorni su 7. Roma, cito testualmente quello che ha detto, è l'unica capitale al mondo dove un'azienda di igiene pubblica non è attiva a pieno regime 7 giorni su 7. In effetti, cioè, è un caso unico, penso, al mondo. Allora, intanto, una buona notizia, così prima dell'applauso, alla fine di febbraio 2020, i 260 inidonei totali verranno messi a fare gli spazzini nei quartieri in periferia. La leggo così perché non capisco se sono inidonei totali, riescono però a fare gli spazzini, ma va bene così. Per riuscire a coinvolgere almeno l'80% del personale nei giorni di festa, Zaghi sta preparando con i sindacati un piano festività che punta a essere pronto entro marzo e riproposto nei prossimi 5 anni. E poi i mezzi, saranno operativi 102 nuovi mezzi pesanti CSL, ma avrà comunque meno della metà dei mezzi necessari. 200 mezzi hanno più di 10 anni, in Italia l'età media è di 7 anni e non di più, in Europa non più di 5 anni. La mancanza di uomini e mezzi compromette la regolarità del servizio. Nel 2019 il servizio ha fatto meno 2% sul 2018, quindi alla faccia della classifica l'AMA non solo non cambia, peggiora. Nel 2019 i servizi pianificati sono stati 144000, ma quelli erogati sono stati 14000 in meno. E poi i municipi, che fotografano la situazione: problemi con le utenze non domestiche, raccolta di foglie e spazzamento non effettuati, cassonetti bruciati non ritirati, flop del porta a porta. Trovate una soluzione per AMA, a me non resta che dargli un bellissimo applauso, anche se un po' disperato. Allora, vedo molti suggerimenti sui bambini di Palermo dell'oratorio, qualcuno suggerisce pallone di gomma piuma, qualcun altro dice vietato gioire dopo il gol. Beh, certo, secondo la disposizione del magistrato, col cavolo che urli dopo un gol, no? Ma anche se c'è un fallo non puoi urlare, non puoi dire niente, cioè deve essere il silenzio totale, perché c'è il gioiello Gstad, San Moritz, Verbier, Palermo, questo è quello che ha in mente il giudice. Qualcuno mi dice hai bisogno di un neurologo, ma di quelli bravi sì, ha ragione, anche perché la classifica a questo ti porta. Andiamo sul GR24 e poi la startup e poi la vicenda popolare di Bari con l'arresto ai domiciliari di padre e figlio Jacobini. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura. 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Rocchetta, giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea. Centro Software, die beste ERP für italienische Unternehmen. Non serve un software gestionale tedesco per un'impresa italiana che vuole diventare grande. L'ERP di Centro Software gestisce CRM, pianificazione, produzione, MES, logistica, supply chain, controlli qualità, finanze, amministrazione ed è anche interconnesso con gli impianti produttivi per Industry 4.0. Scopri l'ERP ideale per la tua impresa su centrosoftware.com. Centro Software, il miglior ERP per le imprese italiane. Tutti vogliono far parte della convenienza doppia Coop. Sentiamo delle patate. Siamo due volte convenienti per la spesa e per l'ambiente, con residui chimici molto inferiori ai limiti consentiti dalla legge, meno del 70%. Fritte, ma mai sconfitte. Fino al 5 febbraio, patate gialle origine Coop, 1,18€ la confezione da 2 kg. La Coop sei tu. Ormai sai usare la fatturazione elettronica. Crei, invii e ricevi fatture ogni giorno. Ma ti sei accorto di spendere troppo? Passa alla fatturazione elettronica di Aruba. Puoi importare da altri sistemi i tuoi clienti, i prodotti, i servizi e le fatture in una soluzione completa e conveniente. Chi l'ha scelta non la lascia più. Risparmia con la fatturazione elettronica di Aruba su aruba.it. Ci rivediamo sulla 7 tutte le sere alle 20:30. Lilli Gruber conduce 8:30. Questa sera alle 20:30 sulla 7. La 7, sai cosa vedi. La bicicletta è una fabbrica di buon umore ed è un'ottima scusa per fare amicizie. In bicicletta ci si dà sempre del tu. La bicicletta fa un po' ritornare i bambini, ci riporta un po' alla nostra essenza. Qualunque sia il vostro passo o la vostra meta, c'è sempre una bici per voi, un itinerario da scoprire, un'occasione per mettersi alla prova. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto ogni domenica dopo le 16 con A Ruota Libera su Radio 24. Indigestione da cattive notizie? Stress da cambiamento climatico? Depressione da lettura dei giornali? Prova Si può fare. Col suo concentrato di buone notizie agisce rapidamente contro il pessimismo. Lo puoi assumere fino a 2 volte a settimana, tutti i sabati e le domeniche dalle 8:30 alle 10. Anche a stomaco vuoto? Sì, beh, se fai colazione è meglio, noi la facciamo. Allora, chef, è tutto pronto. Il cunigiu, il gâteau, lo sbus, il pane con la mezza e soprattutto il mio cavallo di battaglia, la cassuela. La cassuela con la cadrega te la mangia. Non l'ho detto bene? Sì, perfetto. Ah. Quando lo dirai in maniera corretta ti offrirò una cena dove vorrai. Vabbè, mangia come parli. Comunque, tutta la cucina regionale italiana. E anche scritta. Cacio e pepe, compresa. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11. Su Radio 24. Marquez lo porta verso l'interno, non molla Andrea Dovizioso, bella, la infila bella, con una bella derapata con il cuore, è dentro con il cuore dentro. Oddio, ce l'ha fatta. Con il cuore, con la mente, con l'orgoglio, con la volontà, perché a vincere alla fine è uno soltanto. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16:30 a Olimpia vi racconterò i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24. No, è bella mamma, non è questa. Sì, suggestiva, sì, ma non è nemmeno questa. Eccola, questa sì che è la vostra imprescindibile colonna sonora, da ascoltare quotidianamente per avere a fine giornata un quadro chiaro ed esauriente di ciò che di più importante è successo in Italia e nel mondo. Effetto notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. Focus Economia. Minuti, e come sempre dopo la poco invidiabile classifica cerchiamo di tirarci su con un caso virtuoso, anche perché poi dobbiamo parlare invece della Polare di Bari, lì da tirarsi su ce n'è molto poco. Allora, Filippo Causero, numero uno e cofondatore di Foxwin, buonasera. Sì, buonasera. Che cosa fa Foxwin? Quanti siete? Chi vi ha aiutato? Quanto fatturate? Quanti anni ha lei? Cosa faceva prima? Un fiorino. Va bene, va bene. Beh, io ho 32 anni, sono fondatore di Foxwin. E questa idea mi è nata 4 anni fa durante un'esperienza, no, multinazionale italiana, dove avevamo creato un concorso delle idee. Insomma, avevamo chiesto a tutti i collaboratori delle idee su come migliorare i processi, su come rendere l'azienda più efficiente. E devo dire che questo concorso ha funzionato alla grande, perché in meno di un anno abbiamo risparmiato quasi 3 milioni di euro. Però. E la cosa che mi è piaciuta di più è vedere le persone coinvolte in azienda a portare avanti un progetto per migliorarla. E alla fine l'abbiamo anche premiati. E da questa esperienza mi è venuta l'idea di fondare una startup, quindi Foxwin, per sviluppare una piattaforma che agevolasse tutte le imprese nel far emergere queste idee, perché tutti i collaboratori delle grandi aziende hanno delle idee, ma molto spesso non riescono a realizzarle perché non riescono ad arrivare ai decision maker, quindi ai dirigenti, certo. O perché non c'è il momento giusto, ci sono mille altre urgenze, e così dopo le persone anche si demotivano, che avrebbero delle idee, vedrebbero dei problemi, vorrebbero anche risolverli, ma non lo possono fare. Beh, con la piattaforma è tutto più semplice, basta inserire la propria idea all'interno, pubblicarla, i colleghi la vedono, la votano, e se effettivamente è qualcosa di positivo poi viene realizzata, col beneficio sia dell'azienda che per l'autore che riceve un premio. Allora, quindi se ho ben capito, una piattaforma di condivisione di idee e di proposte, sì. Perché diciamo, qual è l'elemento facilitante? Cioè il fatto che uno non debba che le condivida con una piattaforma e quindi è più lì, si sente anche più libero di esprimere le sue idee, di fare la proposta? Sì, sicuramente, perché ad esempio all'inizio le idee sono anonime, se poi queste vengono approvate allora l'autore diventa visibile. Però è uno strumento per valorizzare l'intelligenza collettiva, che è una capacità che noi esseri umani abbiamo se soltanto riusciamo a lavorare insieme. E una piattaforma ti permette di collegare 50, 100, migliaia di persone e quindi condividere la tua idea con mille persone e scoprire che in un dipartimento che tu lontano da te c'è una persona che non solo ha degli spunti su come migliorare la tua idea, ma si candida anche volontaria per darti una mano a realizzarla. Quindi in realtà la tecnologia è un'interconnessione delle persone. Senta, quanti siete, chi vi ha aiutato e quanto fatturate? Sì, noi siamo in 5, attualmente che lavoriamo più altri 5 partner insomma con cui collaboriamo. Siamo nati nel 2016, siamo partiti come molte startup con gli amici e parenti che ci hanno dato la mano, ci hanno finanziato, poi una banca e adesso dopo 2 round di investimento sono avvicinati anche dei business angel e un piccolo fondo di investimento. Abbiamo fatturato nel 2018, che è il primo anno in cui siamo andati sul mercato, 55.000 euro e l'anno scorso 75.000, diciamo. E se all'inizio lavoravamo con le banche, con le aziende medie, diciamo, adesso finalmente siamo riusciti a raggiungere le multinazionali che sono il nostro vero target, come Crédit Agricole. E che obiettivo avete per quest'anno come fatturato? 500.000. Quindi però, diciamo, questi primi 3 anni sono serviti per sviluppare la piattaforma, cominciare a farci conoscere alle imprese, arrivare finalmente alle multinazionali, e abbiamo una pipeline di clienti insomma che stiamo coltivando affinché nei prossimi mesi effettivamente facciamo un acquisto. Senta, per concludere, lei cosa faceva prima? Perché vedo che ha 32 anni, giusto? Sì, sì, sì. Beh, ho lavorato come program manager alla General Electric a Firenze e quindi portavo avanti dei progetti per rendere l'azienda più efficiente. Allora, in bocca al lupo a lei e agli altri suoi 4 dipendenti. Noi portiamo sempre startup che per definizione sono piccole, lo dico che mi sta scrivendo. Grazie al numero uno e cofondatore di Foxwin, Filippo Causero. Allora, prima di arrivare alla Popolare di Bari e gli arresti ai domiciliari per padre e figlio Jacobini e anche l'interdizione per De Bustis a ricoprire la carica dirigenziale per 12 mesi, volevo fare un rapidissimo commento sulla borsa. Dico rapidissimo non perché la borsa oggi non sia pesante, meno 2,30 a Milano, il combinato disposto tra il PIL italiano, risultato come commentavamo all'inizio del programma, più basso delle attese, in contrazione quarto trimestre su terzo trimestre per la prima volta dal 2013, un ingresso nel 2020 debole, rallentatore. E poi vedremo se ha ragione il ministro Gualtieri che dice mi aspetto un rimbalzo nel primo trimestre, vediamo. Poi c'è tutto l'effetto coronavirus e quindi dicevo il combinato disposto penalizza particolarmente Milano -2,30 contro Parigi -1,1, Francoforte -1,30, Londra -1,30% anch'essa, euro su dollaro quota 1,10. Tra i titoli segnalo alcuni bancari: Banco BPM perde il 5%, ST Microelectronics il 4,40%, Exor il 4% di calo, Poste pure, Biper anch'essa -4%, poi Fineco Bank -3,7%, come Telecom Italia e Pirelli, 3,5% perde Saipem, il 3,30% UbiBanca, il 3,20% sia Era che Azimut che Nexi. E chiudo con chi ha perso il 2,80%, 2,70%, 2,80%, cioè Enel, Generali, Mediobanca, Recordati, CNH. Il positivo c'è solo Atlantia, più 2%, nell'ipotesi che poi lo scontro con il governo possa avere un esito meno dannoso di quanto previsto per l'azienda. Sì, adesso vedremo, il ministro Di Micheli ha detto che è quasi pronta la relazione tecnica, l'altra ipotesi su cui si sta ragionando è di arrivare a una revoca di alcuni tratti dove c'era di cui Autostrade per Italia la concessione, non di tutta la concessione autostradale. Leonardo più 1,91%, il commento complessivo Enrico Miele, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Prego Enrico. Sì, abbiamo scritto su Radio Corri più del coronavirus, poi il PIL che ha mandato il rosso Piazza Affari, che è stata la peggiore tra le principali borse europee con un tonfo del 2,3. Infatti ai timori legati al contagio globale del virus cinese, in questa seduta, nel corso della giornata, si è sommato quello che anticipavi tu, il brusco stop dell'economia italiana, che ha registrato la più forte frenata del PIL dal 2013, quindi insomma torniamo con la memoria ai tempi di crisi, e questo ovviamente ha zavorrato tutto il FTSE MIB, che per una volta diciamo è stato agganciato ai dati dell'economia reale. E quindi diciamo da noi, se vogliamo immaginare che un 1,5-1,2%, che è quello 1,3 che perdono tutte le borse europee, è imputabile all'atteggiamento nei confronti dei rischi sul coronavirus, un altro 1%, 1,2 ce lo becchiamo per il PIL, se ho ben capito, no? Sì, perché è stata diciamo una sorpresa in negativo, perché sì, nonostante la nostra economia da tempo viaggi a singhiozzo, però un dato, una flessione del genere è stata purtroppo una sorpresa in negativo, quindi in questo caso è chiaro che alcuni già abbiamo il problema dei settori particolarmente sensibili all'export come ST, come Pirelli, che faticano con questa certo crisi del commercio mondiale. In un caso del genere poi gli istituti di credito diventano un termometro, insomma sono i titoli più sensibili quando c'è un rallentamento dell'economia. E così mi permetti di ribadire quello che dicevamo in apertura. Guardate, uno può scegliere le strade che vuole. Io ho fatto solo notare che dalle politiche precedenti, cioè quota 100 e reddito, non è arrivata nessuna spinta in grado di controbilanciare un rallentamento economico che non è colpa né di questo governo né dell'altro, e mi riferisco alla Germania che ha fatto più 0,6% nel PIL. Però mi sembra importante, lo dico all'attuale governo, questo sì, oltre che ragionare di taglio del cuneo fiscale, vabbè, di impostare una manovra e iniziare a ragionare su che sblocchi effettivamente gli investimenti infrastrutturali. Non riuscirai mai a diciamo correggere l'andamento del PIL immaginando se non parti con, o amplifichi gli investimenti in infrastrutture, anche perché tra coronavirus e forse tensioni Stati Uniti ed Europa è tutto da vedere che quest'anno possa andare in maniera diversa, quindi migliore rispetto all'anno scorso sul fronte dell'export. Quindi ritengo personalmente troppo rischioso appoggiarsi nel 2020 solo sull'export. Fate ripartire gli investimenti, l'effetto sul PIL, lavoratori che lavorano. E per carità, poi se c'è margine anche per un cuneo fiscale, un intervento ancora più forte sul cuneo fiscale, ben venga. Però quello che manca all'appello, lo continuiamo a dire, sono in questo paese gli investimenti pubblici che poi portano investimenti anche privati. Grazie intanto Enrico Miele, andiamo al traffico e poi ci spostiamo a Bari, o meglio raccontiamo che cosa ha deciso oggi la procura che sta indagando sul crack della Popolare di Bari. Focus Economia. Down, down, down. Vedo molti messaggi sulla battuta d'arresto, sul PIL. C'è chi dice, beh, perché il governo era lì che faceva la manovra e tra tasse sulla plastica e tasse sullo zucchero ha bloccato l'attività. Può essere, mi sembra un po' brusca per essere imputabile solo a quanto si discuteva che poi non è stato messo in manovra. A me sembra molto chiaro che non c'è nessuna spinta in questo momento in grado di controbilanciare il calo dell'export che è dovuto a dazi ma anche a Germania in frenata. Comunque andiamo a Bari perché l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, dai PM Federico Perrone Capano e Savina Toscani ha portato oggi agli arresti domiciliari per lo storico presidente ed è anche numero uno della Popolare di Bari, Marco Iacobini, e suo figlio Gianluca Iacobini. E poi ai domiciliari anche Elia Circelli, accusato di un episodio di falso in bilancio e falso in prospetto, mentre a De Bustis è stata data l'interdizione, De Bustis Figaro, che già era stato direttore generale della banca dal 2011 al 2015, poi richiamato nel 2018, non si capisce bene perché. Comunque interdizione per 12 mesi dell'attività di dirigente di istituti bancari. Faccio notare che De Bustis viene anche dall'esperienza di Banca 121, Banca del Salento, non lo so, adesso non... No, però voglio dire, insomma, dai, il curriculum serve a qualcosa oppure così? Bah. Va bene per modo di dire. Qual è l'accusa della procura? Perché scattano adesso i domiciliari? Perché Marco e Gianluca Iacobini, poche ore prima del commissariamento della banca, avrebbero messo in atto condotte di occultamento dei profitti illeciti trasferendo dai loro conti correnti cointestati alle rispettive mogli somme per complessivi 5.600.000 euro, e il trasferimento dei fondi sarebbe avvenuto tra il 12 e il 13 dicembre, appunto poche ore prima del commissariamento, perquisite le cassette di sicurezza anche degli Iacobini ma anche Giorgio Papa, le persone indagate oltre ai quattro destinatari delle misure cautelari sono anche Giorgio Papa, amministratore delegato dal 2015 al 2018, e poi Roberto Pirola e Alberto Longo, presidenti del collegio sindacale della banca, il primo dal 2011 al 2018 e poi dal 2018 in poi. Marco Iacobini nel 2018, pensate un po', avrebbe percepito redditi per oltre 3 milioni di euro dalla banca di cui era presidente e amministratore di fatto, nonostante la banca fosse in dissesto. E questa la dice lunga, poi no, su, perché almeno la nave sta affondando, affonda anche tu con la nave, figurati, sposti i soldi e ti fai strapagare poco prima che la nave affondi. E poi c'è tutta la polemica dell'ex ministro delegato Papa contro la Banca d'Italia, dice c'era un'estrema condiscendenza dei vertici della Banca d'Italia che pur avendo rilevato la grave e ristagnante situazione conseguente a conflitto di interessi venutosi a creare, non ha mai esercitato i poteri di removing, di rimuovere attribuiti dalla legge lo stesso supremo organo di vigilanza. La Banca d'Italia lo scorso 13 gennaio rispose che nel caso della Pop di Bari non vi erano i presupposti per l'utilizzo del potere di rimozione di uno o più esponenti aziendali. Però Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. A te il commento complessivo. Qui si sta andando, insomma, i domiciliari non sono uno scherzo, lo dico perché si sta andando a stringere nell'inchiesta della Procura di Bari su che cosa? Perché qui c'è occultamento da un lato, ma dove punta l'inchiesta? Ma l'inchiesta punta a ricostruire una vicenda che, come abbiamo anche già raccontato più volte, andava avanti da anni, perché comunque da anni che la situazione di precarietà della banca e anche di opacità, perché parliamo di aumenti di capitale, parliamo di operazioni straordinarie come quella che ha visto il protagonista Tercas, mm-hmm. sono state fatte, diciamo, sul filo di lana, quindi l'inchiesta punta a capire quanto c'è stato di illecito in tutti questi anni. Gli arresti di oggi, nell'ambito di un'inchiesta che è avanti, o perlomeno che è esplosa da almeno 2 mesi, sono legati a un fatto che è ancora più inquietante, nel senso che il GIP ha riconosciuto che, come dice il PM, il sistema, diciamo, messo in piedi dagli Iacobini era ancora attivo. A inchiesta in corso, perché di fatto le misure cautelari sono scattate per impedire che attività più o meno collegate a tutto quello che raccontavi prima evidentemente andassero ancora avanti in questi giorni. Sì, così rispondiamo anche a chi dice ma perché a Zonini e a Consoli non hanno mai dato, ma mi sembra che anche Zonini abbia avuto, però in questo caso i domiciliari scattano perché c'è il rischio di reiterazione del reato, cioè voglio dire o di inquinamento delle prove. Esatto. E visto che è una vicenda, non dimentichiamo che in parallelo c'è un'amministrazione straordinaria, quindi i commissari che stanno cercando di riparare il riparabile e anche definire a quanto ammonta il fabbisogno, il buco e quant'altro. Tutto questo evidentemente c'è ancora tutta una serie di incognite a cui bisogna rispondere e di cui probabilmente chi le ha costruite, quindi gli Jacobini, i manager che li hanno affiancati, sono ancora o erano ancora fino a ieri parte attiva. Questo è il motivo per cui dopo due mesi dagli avvisi e quant'altro si è deciso di ricorrere alle misure cautelari. E quindi inquinamento delle prove e non solo. Da questo punto di vista invece c'è anche una decisione su De Bustis. Secondo te potremmo attenderci altri sviluppi? Cioè, voglio dire, noi abbiamo già commentato in maniera negativa i compensi e lo spostamento di soldi da parte di Marco e Gianluca Jacobini. Mi sembra che dentro ci finiscono anche Papa, appunto, Pirola e Alberto Longo. Roberto Pirola e Alberto Longo. L'accusa, perché uno potrebbe dire, va bene, questo hai spostato i soldi, però la banca devi dimostrare che è fallita per colpa tua. Quello sì, devi dimostrarlo e sappiamo non è facile tecnicamente, insomma ci sono mille questioni da chiarire, così come ci sono mille questioni da chiarire legate a un reato, che un'ipotesi di reato, quella di ostacolo alla vigilanza, perché qui come giustamente accennavi c'è tutto un tema data la prolungata fase di agonia di questa banca, di responsabilità, di Banca d'Italia, di Consob, eccetera. In mezzo c'è un reato che è l'ostacolo alla vigilanza che è molto difficile da ricostruire sicuramente questa indagine sarà diciamo un punto importante per capire quanto funzionano le norme e quanto non funzionano e quanto gli attori del processo hanno fatto il loro dovere. No, dico, nella migliore delle ipotesi, evidentemente gli strumenti in mano, nella migliore delle ipotesi, la Banca d'Italia e la Consob non sono sufficienti. Poi possiamo ridiscutere con la Banca d'Italia, però non sono sufficienti. Devo dire una cosa, uno dei testimoni, Benedetto Maggi, vice responsabile della direzione crediti, ha detto che Marco Jacobini governava la banca con lo sguardo e poi ha detto che il potere tuttora è intatto della famiglia Jacobini dentro la banca, ecco perché sono andati ai domiciliari. Mi fa notare giustamente un ascoltatore che si danno anche per pericolo di fuga, sì. Non so se fosse questo il caso, però il rischio che gli Jacobini, nonostante non siano più dentro la banca, non abbiano più nessuna carica, continuino, diciamo, a gestirla de facto, è forse alla base di tutta questa motivazione. E questa è anche l'aberrazione di questa banca, che è una popolare, quindi in teoria è una cooperativa, ma in realtà, come anche si vede dalle pagine di oggi, dell'ordinanza di oggi, era una monarchia assoluta governata da una famiglia. Sì, lo dicevamo dal 2016 in poi. Ecco perché ritengo che quantomeno, se va tutto bene, i poteri della Banca d'Italia e della Consob non sono efficaci, quantomeno. Comunque, grazie. Anche Marco Ferrando, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, come sempre, l'augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passare lavorando, e un ringraziamento a Barbara Bianchi per l'assistenza in studio e in redazione. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.